I Maya, la Bibbia e il signor Rossi. Leggo nella Bibbia in Seconda Pietro, capitolo 3, versetti 3 e 4. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Anche il 21 dicembre 2012 se ne sta andando, come è venuto. Un giorno come gli altri. Negli ultimi mesi si è parlato tanto di questa data. Chi con ironia, chi con l'atteggiamento del tipo «non ci credo ma non si sa mai», chi con la convinzione che una catastrofe si sarebbe abbattuta sull'umanità. Il calendario Maya aveva previsto la fine del mondo, ma così non è stato. E adesso cosa facciamo? Ci avevano fornito materiale per trasmissioni radio e televisive, argomenti di conversazione. Qualcuno ci ha addirittura scritto dei libri e ci ha fatto qualche soldino. Intanto c'è chi dice che la profezia potrebbe essere interpretata come l'inizio di una nuova era. Così si potrà guadagnare ancora qualche soldino con altri libri. Ora non ci resta che aspettare la prossima profezia sulla fine del mondo? La mia impressione è che tutte queste cose contribuiscano a rendere le persone ancora più scettiche anche sulle profezie contenute nella Bibbia. Tutti questi falsi allarmi non fanno che aumentare l'indifferenza. In fondo, penserà qualcuno, che siano i Maya o siano i profeti della Bibbia, che differenza fa? E così prende sempre più corpo l'indifferenza e l'atteggiamento beffardo verso tutto ciò che ha una parvenza di soprannaturale. Già percepisco intorno a me l'atteggiamento ben descritto in questo verso. Le persone stanno diventando sempre più allergiche a qualunque tipo di regole morali, sempre più leggi a se stessi, sempre più beffardi verso qualunque autorità. E di fronte alla predicazione del Vangelo, c'è sempre più l'idea che in fondo si tratti di una filosofia come tante altre, ormai superata, prossima ad essere dimenticata. La Bibbia, un libro di favole scritto molti secoli fa. Dio? Ma non era già morto? Il mondo prima o poi finirà? Ma sì, intanto noi facciamo la nostra vita, tanto le cose continuano ad andare sempre nello stesso modo. Abbiamo gabbato i Maya? Ce la caveremo anche le prossime volte. Tutte buffonate. Anche la Bibbia ha previsto che questo mondo, così come lo conosciamo, finirà e ha previsto che ci sarà un giorno in cui tutti gli uomini saranno giudicati. Ma ciò che rende la Bibbia straordinaria è che non vi troviamo scritta la previsione di una data. Essa ci fornisce piuttosto gli strumenti per discernere i sintomi che anticipano la fine del mondo. Allora io vi invito, provate a leggere e studiare la Bibbia con serietà e mente aperta, e vi renderete conto che quei sintomi sono visibili nel mondo in cui viviamo, già oggi. Oppure fate come il signor Rossi. Lui si rifugia nel suo materialismo, se la ride di tutto. Purtroppo lui non sa che per ironia della sorte, uno dei sintomi che accompagnerà la fine dei tempi, come descritto in questo verso, è proprio lo scetticismo diffuso. E questo sintomo si sta avverando proprio sotto i nostri occhi.